al 22 maggio. Per info su temi e relatori, googleweek.it. Iscriviti subito, l'evento è gratuito ma i posti limitati. googleweek.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo qua per Dante Alighieri al Senato, sono lieto di essere in questo luogo. Tra l'altro l'anniversario cade proprio preciso, se cadeva fra 2 anni il Senato veniva abolito, quindi siamo stati fortunati. Che coincidenza, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come ha sottolineato oggi Roberto Benigni, che appunto era in Senato per celebrare i 750 anni della nascita di Dante, e giusto in tempo, dice, perché vabbè, quella è una riforma che ancora si deve fare, ancora da avvenire, quella del Senato, si abolirà, non si abolirà. Sembrava a Renzi nei giorni scorsi che fosse abbastanza possibilista quasi sul tenerlo così. Comunque invece un'altra riforma oggi è stata compiuta, che è quella della legge elettorale. L'Italicum è legge, ci sono stati diversi voti contrari, ma insomma è passato. Ne parleremo in modo approfondito con colui che è stato un po' il padre, diciamo, di questa legge, il consulente da un punto di vista politologico, come vogliamo dire, per l'Italicum. Voi potete naturalmente esprimere le vostre opinioni su una riforma che molti attendevano e altri dicevano ma in realtà non era una priorità. I detrattori sono tanti, però la maggioranza ha votato pro. Vi ricordo i vostri canali privilegiati per intervenire con Effetto Notte. Vi ricordo anche che lunedì è la versione più corta, quindi non perdetevi ogni attimo, è prezioso. 349-238-6666 è il numero per gli sms, 349-238-6666, oppure c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre opinioni su questo, sull'Italico, siete soddisfatti che la legge sia passata, e anche sulla scuola, perché domani c'è lo sciopero generale. Il governo vuole varare questo disegno di legge che si chiama la buona scuola, però evidentemente per chi ci lavora nella scuola non è buona fino in fondo, altrimenti non sciopererebbero domani. Cercheremo più tardi di capire con gli addetti ai lavori quali sono le motivazioni di questo sciopero. Intanto però, mentre voi fate le vostre riflessioni, vi ricordo, vi riassumo meglio la giornata. L'Italicum è legge, la Camera ha dato il via libera definitivo alla riforma elettorale, Renzi twitta impegno mantenuto, le opposizioni lasciano l'aula e non votano. Immigrazione, il Ministero dell'Interno chiede 9.000 posti per l'accoglienza degli immigrati, ma c'è già chi dice no. Gli scontri in Expo a Milano, restano in carcere 5 arrestati venerdì per le devastazioni in città. Scuola, in migliaia scendono in piazza domani contro il disegno di legge Renzi, gli studenti scioperano con i professori, la ministra Giannini dice sono perplessa sui punti contestati. Pensioni, governo al lavoro dopo la sentenza della Consulta, e l'Unione Europea avverte attenti ai conti. Texas, a Dallas, attacco alla mostra di vignette su Maometto, uccisi terroristi, uno è cittadino americano, rivendicazione dell'ISIS. Gran Bretagna, la neonata reale ha un nome, anzi tre, Charlotte, Elizabeth e Diana. Ovviamente partiamo dalla politica e quindi dalla nuova legge elettorale, l'Italicum, che è passato definitivamente, vi dicevo, alla Camera. La fronda cioè si sente, 334 sì, 61 no, l'Italicum è legge in un'aula semivuota, allo scrutinio non partecipano le opposizioni in segno di protesta, impegno mantenuto, promessa rispettata, twitta il Premier Matteo Renzi, l'Italia ha bisogno di chi non dice sempre no, avanti con umiltà e coraggio, così il ministro Maria Elena Boschi. Missione compiuta. Il governo ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini, fare dell'Italia un paese in cui il giorno dopo le elezioni si sappia chi ha vinto. E la legge elettorale è il simbolo di un governo che non si limita a predicare le riforme, ma le fa sul serio. Abbiamo promesso e abbiamo mantenuto. Ma i dissidenti Dem esultano, tra i 61 voti contrari ce ne sarebbero almeno 45 dei democratici, un dato superiore ai 38 che non hanno partecipato al voto di fiducia. Il dissenso è ampio, dice l'ex segretario per Luigi Bersani. D'accordo, Gianni Cuperlo. Non abbiamo fatto nessuna campagna acquisti, non era una prova di forza, non era una prova muscolare. Il dato su cui riflettere è questo, spero che sia un dato su cui rifletta anche la maggioranza e il governo. La nuova legge elettorale entrerà in vigore il 1 luglio del 2016, è valida solo per la Camera, prevede un premio di maggioranza alla lista che al primo turno supera il 40% dei voti, oppure si va al ballottaggio, capilista bloccati, soglia di sbarramento al 3%. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Montecitorio. E ora l'immigrazione. Secondo il Ministero dell'Interno servono 9.000 posti in Italia per accogliere i migranti arrivati in massa negli ultimi giorni, ma c'è già chi si rifiuta, chi dice no, come la regione Lombardia. Anche nelle ultime ore le navi della missione Triton hanno continuato a fare la spola fra il canale di Sicilia e i porti del sud Italia. I migranti soccorsi in mare e sbarcati in questi giorni sono ormai migliaia e i centri di accoglienza, soprattutto quelli siciliani, sono sempre di più in sofferenza. In settimana il ministro dell'Interno Alfano incontrerà i rappresentanti di comuni e regioni proprio per fare il punto sull'accoglienza. Nel frattempo però il Viminale, con una circolare, ha già allertato tutte le prefetture chiedendo loro di trovare fra gli 8 e i 9.000 posti per i migranti arrivati negli ultimi giorni. Ad eccezione di quelle siciliane, in ogni provincia dovrà essere distribuito un centinaio di persone, spiega il documento. Parallelamente il governo italiano continua a fare pressioni sulla Commissione europea, che dal canto suo auspica che si possa arrivare in tempi brevi ad una modifica dei bilanci comunitari che permetta di triplicare i fondi destinati a Triton. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci degli scontri in occasione dell'inaugurazione dell'Expo. È stato convalidato l'arresto per le 5 persone che sono state fermate venerdì durante le devastazioni a Milano, appunto nel corteo No Expo. Ammettono la partecipazione al corteo, negano ogni violenza. Hanno risposto tutti alle domande del giudice, ma tutti hanno smentito ogni responsabilità. I 5 fermati dopo gli scontri del 1° maggio, per cui comunque il giudice ha convalidato l'arresto. Più che ai loro racconti, il GIP Donatella Banci Buonamici ha dato peso alla ricostruzione della procura, che ha parlato di un contesto di violenza collettiva contro le forze dell'ordine. Nello specifico, loro avrebbero aggredito con lanci di oggetti e bottiglie gli agenti. Mai frequentato centri sociali, la politica non mi interessa, si difende un ventenne di Rozzano, così anche il coetaneo di Lodi. Tutti e 5 ipotizzano scambi di persona, ma il GIP non gli crede. E la convalida del fermo è stata chiesta anche per i 5 francesi bloccati a Genova, e nuovi sviluppi ancora arriveranno dall'esame dei tantissimi video sottoposti alle forze dell'ordine. Queste sono ore di complesso lavoro per gli investigatori, ma anche di latente tensione con il Palazzo di Giustizia per le mancate espulsioni di antagonisti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, parlando all'aula del Consiglio Comunale oggi a proposito appunto di queste devastazioni, ha assicurato: daremo un contributo che darà il senso di solidarietà di tutta la città a chi ha avuto dei danni. E vi dicevo, lo sciopero domani nella scuola contro il provvedimento della buona scuola, previsti cortei un po' in tutte le città. Forse non tutti si sono presi la briga di valutare nel merito il provvedimento, ha detto così la ministra dell'istruzione Stefania Giannini, ma dopo, come vi dicevo, cercheremo di capire le motivazioni di chi protesta. E poi c'è anche il nodo della rivalutazione delle pensioni. Governo al lavoro sulla mancata rivalutazione per 2 anni delle pensioni sopra i 1.400 euro bocciata dalla Consulta. In ballo ci sarebbero, secondo alcuni calcoli, almeno 10 miliardi di euro, una cifra che rischia di avere un impatto serio sui conti pubblici. Una mina che però non verrà presa in considerazione nelle previsioni economiche di primavera, quelle che la Commissione europea diffonderà domani. E questo perché, spiegano fonti di Bruxelles, le conseguenze sul bilancio italiano non sono state ancora formalmente quantificate e definite in provvedimenti. Di certo però, la UE, i cambi in bilancio vanno compensati. Aspettiamo di vedere come il governo applicherà la sentenza, si spiega, ma qualsiasi cambiamento degli obiettivi del documento di programmazione economica e finanziaria va compensato. Intanto il ministro del lavoro Poletti non si sbilancia sul possibile impatto, ma già esclude che possa esserci una patrimoniale per far fronte al buco dei conti. Si espone di più Filippo Taddei, responsabile economico del PD, per il quale bisogna tutelare il costo della vita con l'indicizzazione, ma anche considerare che la pensione è retribuzione differita e quindi deve essere in linea con i contributi versati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E oggi c'è stato il debutto del Presidente del Consiglio Renzi alla Borsa di Milano, la Borsa Italiana. Ha detto: l'Italia ha un problema di classe dirigente, non solo di politica. Il capitalismo di relazione, cioè il capitalismo dei rapporti privilegiati, quello di rapporti chiusi, dice, è morto, e se non muore, muore l'Italia. Così dice Il Mondo, chiede più dinamismo e trasparenza. E poi c'è questa buona notizia, che nei primi 3 mesi del 2015 è aumentato del 50% il numero delle famiglie che ha aperto un mutuo per la casa. Questo è quanto risulta dai dati dell'Associazione Bancaria Italiana, quindi l'ABI. Spostiamoci all'estero. A 4 mesi dall'attacco al Charlie Hebdo a Parigi, la paura arriva in Texas, negli Stati Uniti, dove 2 uomini hanno aperto il fuoco durante un concorso dedicato alle vignette su Maometto, e la pista è quella dell'ISIS. Era un cittadino americano dell'Arizona, residente a Phoenix, uno degli attentatori di Dallas. Si chiamava Elton Simpson e secondo la IBC News era una vecchia conoscenza dell'FBI, già indagato per terrorismo a causa dei suoi progetti di arruolarsi in Africa nelle file dei militanti jihadisti. Non furono però trovate prove sufficienti per tenerlo in carcere. Poco prima di entrare in azione, l'uomo aveva pubblicato un tweet in cui diceva di aver giurato obbedienza all'ISIS. Nessuna notizia invece sull'identità dell'altro attentatore, ma pare che i due fossero vicini di casa o conviventi. L'attacco è scattato intorno alle 6:15 di ieri sera, ora locale, fuori dal centro di Garland, alle porte di Dallas, dove si teneva un concorso per le migliori vignette di Maometto. I due attentatori, parcheggiata l'auto, hanno preso a sparare con fucili d'assalto, ferendo una guardia ad una caviglia, ma subito dopo sono stati freddati dalla polizia. Il concorso era presidiato da 40 agenti pagati dall'American Freedom Defense Initiative, che offriva $10,000 e che avrebbe disegnato la miglior vignetta su Maometto. Si tratta di un'associazione che si definisce a favore dei diritti umani, ma negli Stati Uniti da molti è considerato un gruppo di estrema destra. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora spostiamoci in Gran Bretagna, avrò una notizia un po' più lieta. La neonata reale, la figlioletta secondogenita di William e Kate, nata il 2 maggio, ha un nome, anzi ne ha 3 per non scontentare nessuno, ovvero Enrica Roddolo. Buonasera Enrica. Buonasera. Enrica Roddolo è giornalista del Corriere della Sera, esperta di case reali, ha scritto diversi libri sull'argomento. L'ultimo si intitola Sì, matrimoni regali, matrimoni reali, ha scritto insieme a Giuliana Parabiago. Enrica, è stato un modo, come diciamo, acrobatico per mettere insieme un po' di cose, questi 3 nomi? Sì, è stato veramente un capolavoro di ingegneria di nomi e di diplomazia, perché in questo modo i duchi di Cambridge, William e Kate, hanno riconosciuto diciamo un omaggio al principe di Galles Carlo, tanto bistrattato negli ultimi anni, spesso anche sottovalutato per le sue indubbie qualità. E che probabilmente non diventerà forse re. Comunque Charlotte, quindi il primo nome in omaggio al nonno. 3 nomi, sì. E poi ovviamente hanno reso omaggio alla nonna Elizabeth, in questo modo hanno anche detto di voler rispettare la tradizione britannica, ma hanno voluto inserire Diana o Diana e quindi hanno riconosciuto anche intanto l'affetto filiale di William per la madre, ma anche hanno riconosciuto che la monarchia britannica per sopravvivere deve cambiare, deve aggiornarsi, cosa che sosteneva anche la principessa Diana. E sappiamo, forse i tempi non erano maturi allora. E oggi invece sono passati quasi 20 anni da quell'incidente del 1997, i tempi sono cambiati ed era arrivato il momento per conciliare le due anime della monarchia britannica, quella fortemente tradizionalista e quella più proiettata verso il futuro. E questa bambina riuscirà forse in questo incredibile gioco di prestigio. Glielo auguriamo. Gioco di diplomazia. Enrica, però, adesso pensare un po' sul gossip, alleggerirsi, i giornali inglesi, non solo i giornali, anche dei giornali russi, mettono in dubbio che sia nata veramente il 2 maggio, perché dicono: non è possibile che la mattina una donna partorisca un bebè, il pomeriggio bella, radiosa e così pimpante. È possibile, certo, che abbiano nascosto magari la rinascita, allora, precedente? Certo, le teorie complottiste, soprattutto quando c'è di mezzo un royal, hanno sempre un grande fascino, un grande seguito. Diciamo anche che Kate Middleton ci ha abituati al fatto che è una grande professionista in qualsiasi cosa faccia. È stata una grande professionista nel entrare nella parte di duchessa di Cambridge e quindi futura regina consorte accanto a William, e io credo che sia stata una straordinaria professionista anche in questa occasione. Nel rimettersi subito in sesto, che... dici. Sì, io credo effettivamente che le cose siano andate come sono state raccontate. Diciamo che una donna stratega, una spin doctor nella quale sarebbe orgoglioso Lord Mendelssohn o sarebbe orgoglioso Tony Blair, che fu, diciamo, il grande maestro degli spin doctor britannici, e ha saputo gestire anche questa seconda gravidanza in modo incredibile. Sì, non dimentichiamo anche che chiaramente Kate sarà stata ampiamente aiutata a presentarsi in forma, diciamo, smagliante per i fotografi da un discreto staff di aiutanti, ne toccatori, eccetera. Grazie Enrica Roddolo. Grazie a voi, ciao Erika, buona fortuna a questa bambina. Adesso noi ci fermiamo brevemente per aggiornare chi sta viaggiando e poi cominciamo a parlare dell'Italicum. Per esempio vedo qualcuno che dice: avrei votato l'Italicum turandomi il naso, sono contro le preferenze. Italicum, la vergogna più grande, perché è fatta da chi non è stato eletto, un finto governo che neanche la soglia del 40% manderà avanti, un partito che governa. Questi messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. BMW Freetoride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Massimo che scrive: in tutto questo bailame per l'Italicum il più ridicolo è Bersani, incapace di vincere le elezioni in pieno, fare un governo ed ora fa il pasionario. Ma vi ricordo le notizie più importanti. L'Italicum è legge, 334 sì al voto segreto, 61 no, 4 astenuti. La minoranza PD dice che rivendica insomma il dissenso ampio, ma Renzi replica: ho vinto io. Scuola e migliaia scendono in piazza domani, tra poco ne parleremo. Pensioni, governo al lavoro dopo la sentenza della Consulta, l'Unione Europea però avverte: attenti ai conti. E poi Expo, il GIP convalida la misura in carcere per i 5 arrestati a Milano per le devastazioni. Dallas, attacco a una mostra di vignette su Maometto, uccisi terroristi, uno è un cittadino americano. La pista è quella dell'ISIS. Renzi ha detto oggi alla Borsa di Milano: basta col capitalismo di relazione, il paese deve cambiare. Avete appena sentito i tre nomi per la Royal Girl britannica: Charlotte, Elizabeth e Diana. E dunque concentriamoci sulla politica, perché l'avete sentito, c'è stato oggi il voto finale sull'Italicum alla Camera, quindi sì, definitivo la legge elettorale. L'Italicum è legge, è stato approvato a scrutinio segreto con 334 voti a favore, 61 contrari e 4 astenuti, e c'è stato naturalmente un applauso di qualche secondo partito dai banchi del PD quando c'è stata l'approvazione dell'Italicum. Poi molti esponenti della maggioranza sono andati a baciare la ministra delle riforme Boschi, che questo ovviamente non guasta mai, tra i primi i ministri Angelino Alfano e Roberta Pinotti, e Renzi ha detto: l'impegno è stato mantenuto. Ma di missione compiuta parla anche la ministra Boschi, sentiamo. Missione compiuta, il governo ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini, fare dell'Italia un paese in cui il giorno dopo le elezioni si sappia chi ha vinto. E la legge elettorale è il simbolo di un governo che non si limita a predicare le riforme, ma le fa sul serio. Abbiamo promesso e abbiamo mantenuto. Così insomma è andata, e le opposizioni, cioè il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, SEL, Lega e Fratelli d'Italia, hanno mantenuto invece un'altra promessa, che era quella di la scelta dell'Aventino, insomma di lasciare l'aula poco prima del voto finale. Non hanno votato. Bersani, leader della minoranza, uno dei leader della minoranza PD, sapete che è stato un cammino molto tormentato quello dell'Italicum, soprattutto all'interno del PD, tra maggioranza e minoranza del partito. Bersani è uno degli esponenti principali di questa minoranza, però sembra abbastanza accomodante, perché ha detto: il dissenso è stato abbastanza ampio, ora cosa fatta capo a, sapete il modo di parlare di Bersani, ma il dato politico sta sull'approvazione della legge, sia sulle dimensioni del dissenso, che non è poco rilevante. Poi Di Maio del Movimento 5 Stelle ha detto: nonostante la compravendita, il mercato delle vacche, loro hanno fatto una votazione con pochissimi voti di scarto. Anche lui sottolinea quindi che il dissenso non è poco rilevante. Speranza, che è l'ex capogruppo del PD, ha detto: dopo il voto sull'Italicum la sfida del PD al paese è più debole, non più forte. Non so come la pensa, o più o meno lo so come la pensa, il professor Roberto Dalimonte, che saluto. Professore, buonasera. Buonasera. Politologo editorialista del Sole 24 Ore, nonché possiamo dire che è un po' il papà lei di questa legge, professore. Io sono, diciamo, l'ispiratore. L'ispiratore. Sono quello che di questo schema, di questo tipo di sistema elettorale, ha scritto proprio sulle pagine del Sole e su altri documenti prima che diventasse poi un progetto di legge di Renzi. Quindi chiamare ispiratore forse è il termine più adatto. È il termine più adatto. Comunque, quindi sarà soddisfatto di questo risultato? O, come dice Bersani, il dissenso non è stato poco rilevante? Ma senta, questa legge elettorale è stata approvata con più voti della Mattarella, che fu approvata con, mi pare, con 287 voti, e anche con più voti della Calderoli, il famigerato Porcellum. Questa delle tre leggi elettorali della Seconda Repubblica è quella che è stata approvata con la maggioranza più ampia. Professore, prima di ricordare quali sono i punti principali di questa legge, vorrei far sentire anche che cosa ha detto Brunetta, uno dei più accaniti oppositori, anche se in un primo momento al Senato Forza Italia aveva votato a favore, poi invece dopo, diciamo, dopo la rottura del patto nel Nazareno probabilmente, lo so. Comunque sentiamo Brunetta di Forza Italia che cosa ha detto. No, signor Presidente del Consiglio, le sue parole di ieri a Bologna assomigliavano molto, troppo, a frasi che abbiamo sentito nel ventennio fascista. Noi siamo dell'idea che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, grazie alla sua competenza di costituzionalista, grazie al fatto che ha contribuito a bocciare il premio di maggioranza del Porcellum, siamo certi che il Presidente della Repubblica Mattarella rinvierà questa legge alle Camere per manifesta incostituzionalità. Questo Brunetta, sulla stessa linea possiamo dire Toninelli del Movimento 5 Stelle, che anche lui, insomma, esprime l'auspicio che Mattarella, Presidente della Repubblica, non firmi questa legge. Sentiamo. Noi da cittadini che siamo qua a rappresentare i cittadini che stanno fuori chiediamo di non firmare quella legge perché porta con sé gli stessi principi di incostituzionalità che portava con sé il Porcellum, e lui che ha fatto parte di quella Corte Costituzionale che il Porcellum lo ha bocciato lo sa meglio di tutti noi qua dentro. Quindi, signor Presidente, a 100 cittadini in Parlamento che ne rappresentano milioni fuori, che le stanno chiedendo coraggio. È una scelta coraggiosa? Certamente sì. Professor Dalimonte, si troverà in imbarazzo secondo lei Mattarella quando dovrà firmare questa legge? Mi faccia dire con chiarezza, certo. Sono sciocchezze, lo dico 3 volte. Soprattutto mi meraviglia di Brunetta, uno che ha votato il Porcellum. Brunetta ha votato il Porcellum. Brunetta ha votato questo testo, o il suo partito ha votato questo testo, oltre che il Porcellum nel 2005, ha votato questo testo sia alla Camera che al Senato. Capisce? Tutte sciocchezze. Professore, dovrei dire qualcosa di più. Oh, se vuole, fermo, prego. Sono alla radio. Va bene, allora, comunque è la libertà di dirlo. Professore, però, diciamo, i detrattori di questa legge soprattutto sono preoccupati del rischio di accentrare troppo potere in un solo partito e soprattutto magari in un solo uomo. Questo potrebbe essere. Ma non è assolutamente così. Quel premio di maggioranza, no? Che può bastare. Ma, insomma, alle ultime elezioni giapponesi, il Partito Liberale Democratico ha preso il 33% dei voti e ha avuto il 61% dei seggi alle ultime elezioni. Nelle ultime elezioni legislative francesi il Partito Socialista aveva il 29% dei voti e ha preso il 53% dei seggi. Tony Blair ha vinto il suo terzo mandato col 35% dei voti e ha avuto il 55% dei seggi. Questa è la democrazia maggioritaria e noi ci siamo incamminati su questa strada 22 anni fa. Non oggi, nel 93, con la legge Ciaffi, con l'elezione diretta del sindaco, che è una cosa che piace tantissimo agli italiani. Come piacerà agli italiani questa legge elettorale, che li mette in condizione di scegliere loro e non i partiti chi governerà il paese. Per l'appunto, professore, mi viene in mente un'obiezione di Michele Ainis, costituzionalista, che aveva scritto in questi giorni sul Corriere della Sera, è stato anche ospite di Effetto Notte, che diceva che il rischio è proprio questo, professore, di passare con questa legge elettorale a una specie di elezione diretta praticamente del Presidente del Consiglio. Questa è un'elezione diretta tra virgolette, dico tra virgolette, non come dice Ainis, perché noi restiamo dentro una forma di governo parlamentare. Certo che è diretta, nel senso che al ballottaggio, che è il meccanismo con cui funzionerà veramente questa legge, ci vanno 2 partiti e 2 leader e uno vincerà, ecco perché è diretta. Però ciò non toglie che il premier eletto direttamente può essere sfiduciato dal Parlamento, perché restiamo dentro una forma di governo parlamentare. Questo è il punto essenziale. Per cui noi abbiamo da una parte un meccanismo che dà agli elettori la possibilità di scegliere il governo del paese, ma resta il fatto che il Parlamento può sfiduciare il capo del governo scelto direttamente, tra virgolette, dagli elettori. Quindi combiniamo la governabilità di un sistema maggioritario con la flessibilità di una forma di governo parlamentare. Anche se, professore, tra le obiezioni c'è questa: se vanno avanti le riforme costituzionali e il Senato viene abolito, se è vero, poi manca un contrappeso rispetto al sovrappeso dell'esecutivo. Questa è un'altra obiezione. Noi abbiamo un sacco di contrappesi. l'Europa è il primo contrappeso. Il fatto che le elezioni non vengono annullate, dopo 5 anni si torna a votare, e questo è un altro contrappeso determinante. Poi abbiamo un Presidente della Repubblica che addirittura non solo mantiene tutti i suoi poteri, che non sono simbolici nel nostro sistema, ma verrà eletto col 60% dei voti, che vuol dire che le opposizioni avranno il diritto di veto su chi diventa Presidente della Repubblica. Poi guardiamo la Corte Costituzionale, un terzo viene eletto da un Parlamento con il 60% dei voti, un terzo da un Presidente della Repubblica che viene eletto col 60% dei voti, un terzo dalla magistratura. Parlando di magistratura, abbiamo la magistratura più indipendente del pianeta. E potrei continuare con i contrappesi che già esistono. Professore, per chiudere, mi perdoni, se lei dovesse spiegare in modo molto semplice a chi ci sta ascoltando i 3 punti principali di questa legge, visto che lei ne è l'ispiratore. Il punto principale è semplicissimo. Si va a votare. Se un partito arriva al 40% dei voti, ottiene il 55% dei seggi. Se nessuno arriva al 40% dei voti, i 2 partiti più votati vanno al ballottaggio e chi vince ottiene il 55% dei seggi. Quindi il giorno delle elezioni, la sera, il giorno dopo, si sa chi ha vinto. Gli elettori, con questo sistema elettorale, avranno un potere enorme e una responsabilità enorme. Vedremo come la useranno. Anche se c'è il blocco dei capilista? Anche se, ecco, questa è un'altra falsità. Il blocco dei capilista. La scheda, gli elettori italiani non conoscono ancora la scheda e naturalmente i critici non gliela descrivono. La scheda sarà fatta in modo tale che sulla scheda, accanto al simbolo del partito, comparirà un nome del capolista, come nei collegi uninominali. Se lei, io, se non ci piace quel nome lì, non lo votiamo, così come non votavamo il candidato nel collegio. Quindi i capilista sono visibili e votabili o meno. Professore, per chiudere ricordo solo che l'Italicum, così com'è, come lei l'ha spiegato, entrerà in vigore dal luglio 2016. Io ringrazio il suo ispiratore di averlo spiegato. Grazie, professor Roberto Dalimonte. Grazie a lei. Grazie. Buona serata. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, vi ricordo che la puntata del lunedì è più corta, quindi mi raccomando, adesso devo concentrarmi anche sui vostri messaggi brevemente, sull'Italicum che oggi è passato, Paolo da Modena, Rezzi va avanti e delle critiche dice me ne fotto, esattamente come Benito, alla faccia delle riforme le facciamo insieme, critica Paolo. Poi invece tutta invidia, bravo Renzi, dice un altro ascoltatore, Stefano scrive sono soddisfatto dell'Italicum, avrei solo preferito le soglie almeno al 6%, questo è il 349-238-6666, i vostri messaggi, e le dice bene l'Italicum, fine delle inconcludenti ammucchiate. Poi Domenico sulla pagina Facebook di Effetto Notte, molto positivo avere una nuova legge elettorale che quantomeno rende quasi accettabile recarsi ai seggi. Stefano, giusta o sbagliata, finalmente una riforma portata a termine in meno di 5 anni. Adesso vi ricordo però quali sono le notizie principali di oggi a parte l'Italicum. Parte che è arrivata adesso una notizia di un'altra sparatoria a Baltimora, un altro afroamericano a cui hanno sparato dei poliziotti, pare in questo caso che l'uomo fosse armato, ma è tutto da capire a Baltimora dove è stato ucciso l'ultimo nero. E poi l'Italia, come abbiamo detto, che da oggi è legge, immigrazione, il Ministero dell'Interno chiede 9.000 posti per l'accoglienza degli immigrati, ma c'è già chi dice no, gli scontri no Expo a Milano, restano in carcere 5 arrestati venerdì per le devastazioni, scuola, ne parleremo tra pochissimo, che migliaia domani scendono in piazza, pensioni, governo al lavoro, dopo la sentenza della consulta, Texas, a Dallas, attacco alla mostra di vignette su Maometto, uccisi terroristi, uno era cittadino americano, rivendicazione dell'ISIS, e poi abbiamo parlato anche della Royal Baby in Gran Bretagna che ha un nome, anzi 3, Charlotte, Elizabeth e Diana. Dunque, dalla riforma della legge elettorale alla riforma della scuola voluta da Renzi, che si chiama la buona scuola, questo disegno di legge, che sta a significare nell'intenzione del governo una scuola efficiente, meritocratica, dove si è eliminato il precariato, ma evidentemente è scontento di questo disegno di legge chi nella scuola lavora, anche quindi gli insegnanti ma anche gli studenti, perché domani saranno in piazza in diverse città italiane in questo sciopero generale della scuola indetto dai sindacati, una manifestazione di protesta che chiede di ritirare al governo questo disegno di legge. Ne parliamo con Domenico Pantaleo, che saluto, buonasera. Buonasera a voi. Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL e l'onorevole Anna Ascani, deputata del PD, buonasera. Buonasera. Buonasera onorevole, che fa parte della Commissione Cultura e Istruzione della Camera. Il governo si è detto aperto a eventuali emendamenti, però sembra che nella sostanza, insomma, possano non cambiare gli elementi che non piacciono agli addetti ai lavori. Vedo però poco fa anche una dichiarazione della ministra Boschi per le riforme che ha detto: siamo pronti a modificare, a fare delle modifiche se necessarie. Pantaleo, ci dice in modo molto chiaro quali sono i punti che proprio non vi vanno giù? Il disegno di legge della brutta scuola, perché insomma definirla buona mi pare, diciamo, un eufemismo, ha dei punti incomprensibili, inaccettabili e incostituzionali. Quali sono? La prima questione riguarda proprio i precari. Si è detto che i sindacati scioperano contro le assunzioni. Noi vogliamo le 100.000 assunzioni, che dovevano essere in partenza 150.000, adesso sono 100.000, ma vogliamo un piano per stabilizzare tutto il precariato. Siamo radicalmente contrari all'idea che la scuola si trasformi in una sorta di caserma con un dirigente scolastico che fa le assunzioni, dà i premi e fa il piano dell'offerta formativa, e quindi organi collegiali, contrattazione, contratti, non esistono più, esiste solo l'uomo solo al comando. Terzo, noi chiediamo che venga rispettato il contratto e la contrattazione, e vogliamo soprattutto che ci siano investimenti per la scuola pubblica e non per le scuole private. Su questo, se il governo decide di cambiare, siamo pronti ai cambiamenti. Se deciderà di andare avanti, andremo avanti, perché domani ci sarà una vera e propria sollevazione del mondo della scuola, ma non solo, perché avremo in campo associazioni, studenti. Vorrei dire anche una cosa: ho sentito il sottosegretario Faraone dire che è una minoranza. Beh, li conteremo domani sera se sarà una minoranza o una maggioranza. Domani si conteranno. Onorevole Ascani, ha sentito anche questa cosa, per esempio, del preside che diventerebbe un super dirigente, manager, deputato anche a scegliere insegnanti per il suo istituto scolastico, a premiarli con denaro, quelli che ritiene più meritevoli? C'è il rischio che diventi la scuola una specie di azienda privata in questo senso? Intanto vado anch'io con la fila che ha scelto Pantaleo. Beh, intanto comincio dai precari, perché noi dobbiamo ricordarci che la scuola viene da un periodo in cui, nonostante i sindacati non abbiano fatto sciopero unitario, ci sono stati 80.000 tagli di cattedre. Noi assumiamo a settembre 2015 100.000 docenti a tempo indeterminato. Questo penso che sia un fatto positivo per noi, per i docenti, ma soprattutto per i ragazzi, che avranno finalmente la continuità didattica di cui hanno bisogno e che da sempre abbiamo tutti rivendicato, noi come PD e il sindacato come tale. Poi vengo alla seconda cosa, il dirigente. Pantaleo sa, perché siamo in contatto continuo, al di là di quello che si dice nello storytelling, insomma fuori dai dialoghi che si hanno, che il Partito Democratico sta molto lavorando su questo punto, che una modifica è già stata inserita, e si tratta del cosiddetto piano dell'offerta formativa. In un primo momento nel DDL era previsto che fosse semplicemente sentiti gli organi collegiali, quelli di cui Pantaleo parla. Noi abbiamo inserito una modifica che dice: è il collegio dei docenti ad elaborare il piano dell'offerta formativa ed il consiglio d'istituto, quello in cui cioè ci sono i genitori, gli studenti, gli ATA, i docenti, a votarlo. E anche le opposizioni hanno riconosciuto la positività di questa modifica. Quindi in questo senso un passo è stato fatto. Ci sono altri emendamenti del PD depositati che, ad esempio, prevederebbero, qualora approvati, la presenza di un comitato di valutazione individuato dal consiglio d'istituto, che coadiuvi il dirigente in tutte le sue scelte, sia nella definizione dei premi di merito, sia addirittura nella scelta e nella valutazione dei curriculum degli insegnanti. Quindi tutt'altro che un uomo solo al comando. Ora, quello che ha detto la ministra Boschi è centrale, cioè evidentemente non solo lo sciopero è sacrosanto, è un diritto sacrosanto, e chiunque lo mette in discussione evidentemente fa un qualche cosa di anticostituzionale, da cui io personalmente, ma mi sento di dire, il PD si dissocia totalmente. Ma siamo aperti alle modifiche, anzi molte cose vengono modificate e sono modificate proprio perché siamo aperti ad un dialogo continuo, che poi diventa talvolta contestazione, tal'altra no, ma questo non è un problema. Per noi il problema è che il testo che arriva in fondo sia il testo migliore possibile per la scuola. A mio modo di vedere, quello che stiamo costruendo, grazie al lavoro della commissione parlamentare di cui faccio parte, sarà un buon testo per la scuola. Pantaleo, ha sentito, la convince il fatto che appunto ribadiscono al governo di essere aperti a modifiche, anche prima la ministra Boschi con quest'ultima dichiarazione all'agenzia dell'ANSA di poco fa, e anche sul comitato di valutazione, che quindi aiuterebbe i presidi a scegliere, individuare gli insegnanti e poi anche quelli più meritevoli da premiare? La convince? Io mi auguro che ci sia un radicale cambiamento, non piccoli aggiustamenti. Finora le cose che sento non mi pare che producono un radicale cambiamento, perché insomma Ad esempio, questa storia che i dirigenti debbono scegliersi i docenti, a nostro avviso è incostituzionale, perché va a contrastare contro la libertà di insegnamento, va a contrastare contro le leggi in vigore, perché se uno vince un concorso o viene immesso in ruolo non capisco perché il dirigente si debba scegliere i docenti, e poi potremmo avere anche delle discriminazioni. Penso al fatto che se ognuno si sceglie i propri docenti, ma se uno, se un docente è un disabile, se una docente in stato interessante, chi la prende? E poi alla fine quelli che rimangono dove dovrebbero andare? Alle scuole beneficenti? Cioè, ho l'impressione che chi scrive queste cose non si rende conto del funzionamento della scuola. Poi naturalmente siamo aperti ai cambiamenti, perché noi crediamo che la scuola debba cambiare, ma ho l'impressione che prevalgono, diciamo, logiche probabilmente di chi una scuola non ha mai vista. Io credo che da questo punto di vista bisognerebbe tornare tutti alla ragione, cercare di cambiare radicalmente questo disegno di legge, e però io vorrei ricordare che abbiamo dei tempi. È necessario, a nostro avviso, lo ripeteremo domani in tutte le piazze, che per le immissioni di ruolo ci sia un decreto, perché i tempi ormai stanno scadendo, e credo invece che su tutto il resto abbiamo bisogno di tempi un po' distesi. Questa idea che bisogna fare tutto e subito, tutto in fretta, credo che non va bene, perché credo che proprio perché bisogna andare a cambiamenti radicali c'è bisogno di discutere, di confrontarsi, e soprattutto anche di discutere con chi dalle piazze domani scenderà, perché chiaro, Pantaleo, anche qui l'idea che tutto si faccia all'interno delle aule parlamentari, non ci sia un confronto con le organizzazioni sindacali. A questo risponde l'onorevole Ascari, perché ho un minuto e mezzo, Pantaleo, per l'onorevole Ascari per rispondere, poi devo chiudere. La buona scuola è un disegno complessivo, non si possono scomparare le assunzioni dal resto, perché altrimenti salta il senso di organico dell'autonomia che noi recuperiamo da una storia lunga di cui fa parte anche il sindacato, cioè il superamento della distinzione, capisco che sono termini tecnici, evidentemente anche noi sappiamo qualche cosa di scuola, tra l'organico di fatto e l'organico di diritto. Pantaleo capirà sicuramente quello che sto dicendo. Quindi noi per questa ragione non scorporiamo le assunzioni, non faremo un decreto sulle assunzioni, come ha già detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Quanto invece al resto, è stata già inserita una norma antidiscriminatoria, e ci tengo a ribadirlo perché purtroppo su WhatsApp, su internet, via mail stanno girando notizie che non sono vere. A scuola non entrano gli amici del preside, a scuola si entrerà sempre e comunque per concorso. Poi nell'ambito in un ambito territoriale ristretto si è destinati, dopo una scelta nella quale il dirigente viene, secondo il PD, secondo le modifiche che noi vogliamo inserire, aiutato dal comitato di valutazione, si viene destinati ad una singola scuola. Yes. Io credo che questa sia una cosa positiva per la scuola, positiva per i docenti che fino a ieri erano totalmente precari. Forse questo Pantaleo se lo dimentica, perché dei precari talvolta ci sono occupati poco. Io credo che questo sia qualcosa di positivo per chi fino a ieri non aveva una certezza, e da settembre 2015 invece sarà assunto a tempo indeterminato nella scuola italiana. La ringrazio, onorevole Ascani, ringrazio Domenico Pantaleo. Domani c'è comunque questo sciopero e poi vediamo finalmente se le posizioni arrivano a un compromesso, ad avvicinarsi. Grazie, onorevole Ascani. Grazie, Pantaleo. Io ringrazio Cristian Goldoni e poi la parte tecnica Valeria Bernardi. Noi ci sentiamo tra poco, adesso c'è la rubrica dedicata agli autotrasportatori, sapete che la versione più corta è lunedì, vi aggiorno poi alle 22.